traición. Si tú misma sabes bien que engañaste a este hombre que te quiso con pasión. Ahora cuéntame si a él lo quieres o si es puro interés. Si él te ama más que yo, si fue el signo del dólar que te compró. Tus besos, tus caricias, no las quiero ya pa' nada. Embustera, traicionera. Coge tu camino, no me vuelvas a buscar. El periódico de ayer que no quiero leer más. ¡Traición! ¡Sacúdelo en ti! Mira, traicionera. Como lloro la noche entera, ya no puedo ni cantar. Solo pensar en tus labios lo que me hace reír. Pensar en los momentos que pasaba junto a ti, pero digo bye bye. Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio da Annalisa e da Michele in regia. E Alessandra dovrebbe essere in collegamento. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa e buonasera Michele e ai nostri amici radioascoltatori. Dunque Alessandra, siamo giunti all'ultima puntata di Giro di Boa prima della pausa estiva. Sì, esatto, l'ultima puntata di Giro di Boa, come tu hai ben detto, dalla pausa estiva. Per cui poi questa sera augureremo a tutti buone vacanze. Però prima di augurare buone vacanze, come sempre al passo con l'attualità, Giro di Boa. Annalisa, mi senti bene? Sì, ti sento benissimo. Perché noi abbiamo un po' di... in cuffia ho un po' di rumori di sottofondo. Comunque dicevo, prima di salutarci per le vacanze, questa sera Giro di Boa, parleremo di attualità. Infatti, a 6 mesi dal devastante terremoto che provocò 300.000 vittime ad Haiti il 12 gennaio scorso, Giro di Boa ritorna a parlare di questa terribile catombe per vedere che cosa è stato fatto e se la fase di emergenza si può dire conclusa. A gennaio Giro di Boa aveva già dedicato spazio alla crisi umanitaria che era seguita al sisma con un ospite di Medici Senza Frontiere. Questa sera tratteremo un altro aspetto, con il nostro ospite infatti in collegamento telefonico, che è appena rientrato da una missione ad Haiti. Cercheremo di capire se sia possibile risollevare le sorti di questo paese che è il più povero del continente africano, se l'onda di generosità che si è avuta nei giorni seguenti al sisma si è concretizzata e come gli aiuti, cioè questi ingenti promesse di finanziamento, sono state gestite e coordinate in un paese che ha perso tantissime persone, come dicevamo prima 300.000 vittime, e di conseguenza ha perso anche parte della classe politica. Annalisa, ci vuoi presentare l'ospite di questa sera? Sì, l'ospite di questa sera è l'onorevole Niccolò Rinaldi, parlamentare europeo, membro del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, è vicepresidente. E l'onorevole Rinaldi è membro della Commissione per il Commercio Internazionale e membro sostituto della Commissione per lo Sviluppo. L'onorevole è già stato diverse volte ospite a Giro di Boa. Buonasera onorevole e bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buonasera a tutti. Come Alessandra diceva nell'introduzione, onorevole, lei è appena tornato da una missione ufficiale del Parlamento europeo ad Haiti, appunto una missione ufficiale per valutare i progressi che sono stati compiuti e l'utilizzo anche dei fondi comunitari. Ecco, le vorrei chiedere, dopo 5 mesi dal terremoto, che situazione ha trovato? Innanzitutto grazie per parlare di Haiti. Come dite voi è l'attualità, ma pochi se lo ricordano, ma in realtà è una crisi che è ancora molto acuta e la fine di questi 6 primi mesi tra l'altro coincide con l'inizio della stagione delle piogge cicloniche che durerà fino a novembre, che avranno purtroppo un impatto molto, molto duro sulle condizioni della popolazione che è già provata. E, sì, c'è stata una grande... come dire, globalizzazione della pietà quando è accaduto il terremoto e non c'è stata parrocchia, circolo aziendale, associazione che non abbia voluto dare il suo piccolo grande contributo e mandarlo ad Haiti. L'impegno della comunità internazionale è stato quantificato in 10 miliardi di dollari, quindi una cifra ingente per i prossimi 10 anni, di cui oltre la metà, quasi 6, per il 2010 e il 2011. I fondi quindi sono stati raccolti e sono fondi che dovrebbero essere sufficienti per garantire tutta la prima fase avanzata della ricostruzione di Haiti, che come dite voi ha avuto proprio degli effetti assolutamente terrificanti. Cosa è stato fatto fino adesso? Guarda, io sono tornato abbastanza sconfortato. La nostra era una piccola delegazione di 3 parlamentari della Commissione Cooperazione e Sviluppo, anche proprio perché l'Europa è particolarmente esposta, è il terzo donatore di questo grande fondo di 10 miliardi di dollari. E chiaramente alcune cose sono state fatte, è stato scongiurato il rischio delle epidemie, c'è una distribuzione di acqua potabile e di cibo a tutti quanti gli sfollati, però non soltanto non è cominciata in niente la ricostruzione, ma non sono state nemmeno rimosse le macerie dei crolli. Non ho visto un solo bulldozer, i bulldozer che erano stati portati dalle protezioni civili di tutto il mondo per la ricerca dei sopravvissuti, per l'estrazione dei cadaveri, poi sono stati tutti riportati via, non è rimasto uno ad Haiti, per cui le macerie rimangono dove erano prima. I campi sono ovunque, dei campi con tende delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni umanitarie, tende a volte anche proprio di fortuna, tende che in molti casi non sapranno nemmeno resistere alle piogge che sono già cominciate, per altre che si annunciano per i prossimi mesi. E tutto questo su una situazione che ha dei numeri terrificanti, alcuni li avete ricordati voi, altri li vorrei dire io se non volete farmi altre domande subito. Ma io avrei subito una domanda. Lei parlava della ricostruzione che non è ancora incominciata e della rimozione delle macerie che non è stata fatta. Dunque, io volevo sapere, secondo lei questo si può ricondurre al fatto che fra le vittime c'è una parte della classe, della ex classe dirigente, classe politica del paese, e dunque ovviamente anche delle autorità locali, o piuttosto lo si deve ad una mancanza di coordinamento degli aiuti internazionali e di conseguenza anche il coordinamento della fase di emergenza, come all'inizio si era diciamo scritto? Ma sicuramente ci sono entrambe le ragioni, e poi ce n'è anche una terza, cioè sotto le macerie è finito ad esempio il catasto dell'isola di Haiti, e quindi non si sa più, non si possono più provare le proprietà dei terreni o i terreni che sono liberi, quindi non si sa nemmeno dove ricostruire. Sotto le macerie è finito tutto lo stato civile di Haiti, e quindi anche la ricostruzione dei nuclei familiari è estremamente complessa, le residenze, il luogo di origine delle varie famiglie che si sono sfollate è molto, molto complesso. Su 48.000 funzionari pubblici di Haiti, che non erano nemmeno tanti poi per una popolazione di 10 milioni, 18.000 su 48.000 sono morti nel sisma. Poi sono morti, non so, 400 professori universitari, quasi più della metà di tutto il corpo docente accademico di Haiti. Anche le stesse Nazioni Unite hanno avuto oltre 100 funzionari che sono deceduti nel sisma, anche l'Unione Europea, lo stesso ambasciatore dell'Unione Europea è morto purtroppo durante la quindi c'è una situazione drammatica, e chi ha un po' di soldi ad Haiti se ne va, quindi le persone, si calcola che l'86% delle persone di Haiti, cittadini di Haiti con un tasso di istruzione superiore ha lasciato il paese, quindi manca completamente una classe dirigente, era già estremamente debole prima del terremoto, va detto, e adesso non ci sono proprio le basi per ricominciare. Questa è una prima ragione. La seconda ragione è che chi comunque è al governo non ha nessun tipo di priorità, cioè la cosa sconfortante è che comunque sia il presidente che il governo non hanno un piano di azione. C'è stato in occasione della conferenza dei donatori di New York un piano di ricostruzione che comunque è, come dire, un libro dei sogni con tante cose, ma senza un ordine di gerarchico: questo si fa, si deve fare per primo, si deve fare entro questo tempo, cominciamo con quest'area, poi passiamo a quest'altro settore, niente del genere. E la mancanza di senso di urgenza, di ordine delle priorità da parte delle autorità locali è probabilmente l'elemento più grave, per cui le merci che sono aiuti umanitari sono bloccate alla dogana per 2-3 settimane per ragioni burocratiche del tutto pretestuose, non è stata fatta una legge che possa gestire l'emergenza, che possa ad esempio permettere espropri di terreni che al di là di chi è proprietario non sono utilizzati, non è stata fatta una legislazione che possa permettere il passaggio delle merci umanitarie in modo rapido, non c'è un commissario e via dicendo, quindi questa è una situazione assolutamente insostenibile. A novembre ci saranno le elezioni, e quindi la classe politica si sta concentrando soprattutto nello sforzo, quel poco di classe politica che c'è, concentrando nello sforzo elettorale. E per terza cosa, non è che manca un coordinamento degli aiuti umanitari, lì c'è il blocco delle Nazioni Unite con le sue agenzie, l'Unione Europea, i caschi blu e un numero immenso di organizzazioni non governative, c'è chi dice 5.000, c'è chi dice addirittura 10.000 organizzazioni non governative, fanno tutti del loro meglio, dai caschi blu alle ONG, però c'è un conflitto, una visione non concorde su come gestire gli aiuti. Gli americani, è stata creata una commissione temporanea ad interim per la ricostruzione, che è presieduta dal presidente di Haiti e da Bill Clinton, quindi con il massimo grado di responsabilità, ma lì c'è un profondo disaccordo e questa commissione non è ancora operativa, perché gli americani vorrebbero che avesse anche compiti esecutivi, proprio in assenza delle strutture dei ministeri, proprio in assenza delle capacità locali, quindi vorrebbero, come dire, una sorta di agenzia che si occupasse direttamente della ricostruzione, non solo della decisione ma anche dell'esecuzione, e dall'altra parte europei e Nazioni Unite che invece vogliono affidare la decisione alla Commissione, ma la ricostruzione effettiva anche alle autorità locali, sostenendo anche giustamente che se si fa tutto calando dall'alto, poi quando gli aiuti da 3, 4, 5, 6 anni, la fase della prima ricostruzione sarà finita e se ne vanno, a Haiti non rimarrà nessun tipo di conoscenza, nessun tipo di capacità. Però tendo a essere più d'accordo con gli americani in questo caso, perché pare che non si può aspettare altro tempo. Onorevole, lei ha ricordato che l'Unione Europea è il terzo donatore, a quanto ammontano quindi più o meno gli aiuti comunitari? Poi le vorrei chiedere se può spiegare ai nostri radioascoltatori come gli aiuti comunitari sono gestiti, come sono valutati e qual è il ruolo del Parlamento Europeo a riguardo. Beh, noi diamo 1,67 miliardi come primo aiuto, ma in realtà con aiuti umanitari, ma poi sommando quelli che sono anche gli altri fondi che erano stati già stanziati per Haiti, che quindi devono essere gestiti per il paese, si arriva a 2,5 miliardi circa, quindi una cifra comunque ingente. Ci sono vari piani di azione dell'Unione Europea, uno è il piano di azione gestito da ECHO, che è l'agenzia degli interventi umanitari dell'UE, che sta facendo secondo me un ottimo lavoro, lavora con molte organizzazioni non governative che eseguono un po' i piani di ECHO, ma sono, come dire, la risposta ai bisogni primari, vale a dire le latrine, la distribuzione di acqua, scavare alcuni canali per permettere il flusso delle piogge, queste cose qua che vanno fatte con molta urgenza. Poi c'è l'ufficio della Commissione Europea che anche qua, in cooperazione con alcuni ministeri o in cooperazione con organizzazioni governative, si occupa di problemi che sono a maggior lunga scadenza, per così dire, uno dei quali ad esempio è tutto il problema, che è immenso, dei bambini. Soltanto il 25% dei bambini pensa che la capitale va a scuola, gli altri non hanno ancora ripreso, quindi hanno perso un intero anno e bighellonano tutto il giorno, se così possiamo dire, tra le rovine di questa città. E allora l'Unione Europea sta finanziando non soltanto scuole, ma sta anche proprio finanziando un sistema abbastanza ingegnoso, che ho trovato ben congegnato, di scuole modello, ognuna delle quali è ben finanziata, delle ottime strutture, professori qualificati, che lavora a sua volta con altre 20 scuole vicino al suo territorio per far crescere anche le altre 20 scuole, come dire, minori che prende sotto tutela. E c'è altri interventi che ho potuto vedere fatti bene dall'Unione Europea, sono nel campo delle infrastrutture, ponti e strade, perché anche qui molto è stato troppo spazzato via. Dunque, si diceva prima in apertura un'ecatombe questo terremoto. Credo che l'ONU lo abbia definito la più grande tragedia che l'ONU stessa abbia visto. Ma c'è da ricordare che questa ecatombe è arrivata su un territorio che, come dicevo prima in apertura, è comunque il paese più povero del continente americano, oltre al fatto che la disoccupazione prima del terremoto era al 60% e il reddito annuo pro capite era di $1,300. Oltre al fatto che, come l'onorevole giustamente citava, vi erano i caschi blu, cioè dal 2004 c'era la forza di stabilizzazione. Mettendo tutti questi elementi insieme, dunque la tragedia, l'ecatombe del terremoto, più la povertà immensa del paese e la poca stabilità o l'instabilità politica che perdura da decenni, che possibilità ha il futuro? Nel futuro questo paese, sapendo che anche la classe dirigente, se ipoteticamente avesse avuto delle possibilità, ora sta, non dico fuggendo, però sta abbandonando comunque il paese. Che futuro si può aspettare? Come diceva lei, qui c'è stata una combinazione astrale atroce, cioè proprio tutto l'emisfero occidentale, Port-au-Prince, la città di gran lunga più povera, e il terremoto, l'epicentro, ha colpito proprio Port-au-Prince, quindi una sfortuna terribile nel punto proprio più vulnerabile. Il paese è abituato da tantissimo tempo a vivere di aiuti e con una mentalità di dipendenza molto, molto forte. Di fatto lo Stato per molti aspetti non c'è, cioè anche alle dogane soltanto il 20% delle tasse dei diritti della casa, la corruzione, così come purtroppo abbiamo un grosso traffico di bambini per anche questioni assolutamente indicibili, ma il traffico dei bambini esisteva già prima in parte della società haitiana, perché le famiglie più povere avevano l'abitudine a volte di vendere alcuni figli alle famiglie più ricche, che utilizzano poi questi ragazzini come domestici o piccoli schiavi casalinghi alle loro dipendenze, senza nessun tipo di accesso alla scuola o altro. Il 100% degli investimenti dello Stato sono assicurati dall'aiuto pubblico, ma questo è un dato vecchio, pre-terremoto, quindi l'85% del bilancio dello Stato è aiuto pubblico, quindi lo Stato è sempre stato un'entità estremamente esile ahimè. Si sperava che questo terremoto fosse, come dire, una, e questo spera, un'azione di rischio, una classe dirigente per ricostruire da queste macerie un Haiti diverso. La mia impressione è che purtroppo questo non soltanto non sta accadendo, ma che i vecchi vizi sono purtroppo confermati, rafforzati da questo cataclisma. E mi auguro che la comunità internazionale, ed è questo il senso anche di quello che martedì dirò al Parlamento europeo, dove potrò fare la relazione di resoconto di questa visita, cambi marcia. Ci sono le premesse, perché molte cose le vediamo. Pensate che l'anno scorso, per l'elezione suppletiva di 10 senatori, la comunità internazionale ha pagato $19 milioni per organizzare quelle elezioni, che sono state delle... c'è una forte rassegnazione, ma c'è anche molta dignità e molta voglia di attaccarsi alla vita e di andare avanti. Il panorama fisico è di totale desolazione a Port-au-Prince, ma il panorama umano non è di disperazione, le persone che vivono in condizioni ammassate le une alle altre, ovunque ci sia un solo spazio dove piantare una tenda in città o fuori dalla città, ma anche in città, addirittura ci sono le tende in mezzo ai viali di massima circolazione di automobili, quindi che fanno da guardrail, da spartitraffico tra una corsia e l'altro, file di tende tra tutti i tubi di scappamento. Chiudere, avrei un'ultima domanda. Sentivo poco fa un suo intervento e lei citava la protezione civile europea, un progetto che a quanto pare è già in marcia. Magari ci vuole dire qualche cosa, vuole spiegare ai nostri radioascoltatori di che cosa si riferisce? Beh, c'è già una decisione di principio e quindi ci sono già gli strumenti normativi per attuare quella che si chiama EUFAST, un sistema di reazione rapida di protezione civile europea che possa migliorare, valorizzare quello a cui abbiamo assistito a gennaio, vale a dire l'invio di 27 quelle sostanze prima l'urgenza del momento, non si può poi pensare più di tanto al coordinamento. Se ci fosse questa EU-FAST si otterrebbe sicuramente un servizio più efficace, con meno, non dico sprechi perché non è sono necessariamente degli sprechi nelle tante protezioni civili nazionali, ma le risorse sarebbero ottimizzate. E oltre a questo ci sarebbe anche, come dire, una visibilità dell'Europa in quanto tale migliore rispetto alla selva di sigle, di bandiere, di simboli che invece sono presenti dappertutto ad Haiti. Gli strumenti normativi sono in realtà già predisposti, manca la volontà politica per il momento di fare una cosa come quella di Haiti presto. Onorevole Rinaldi, noi la ringraziamo dallo studio per il suo interessante contributo e per aver partecipato nuovamente alla nostra trasmissione. Speriamo di riaverla presto in futuro ai nostri microfoni. Grazie e buon lavoro. Grazie mille a voi. Grazie una volta mille e buon lavoro. Grazie. Facciamo ora una pausa musicale e poi rientreremo in diretta con il secondo tema di questa sera. Oh! Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento tutti i giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque ritorniamo in studio per questa seconda parte della trasmissione. Secondo tema, Alessandra, siamo sempre al passo con l'attualità calcistica in questo caso. Al passo con l'attualità, però cambiamo tenore. Ti lascio presentare il tema, io presenterò poi gli ospiti, Annalisa. Benissimo, dunque cari radioascoltatori, stavo giusto dicendo, quindi un Giro di Boa sempre all'attualità, al passo con l'attualità, attualità calcistica. Non potevamo non aprire una seconda finestra sui mondiali di calcio. Vi ricorderete, avevamo parlato dei mondiali all'inizio, sembra veramente passato tanto tempo, un mondiale di calcio che si è aperto l'11 giugno scorso. Ne avevamo parlato l'ultima volta con i nostri ospiti, quando l'Italia, a quel tempo ancora in gara, aveva disputato una partita. Nel frattempo, come tutti sappiamo, l'Italia non si è qualificata, si disputerà questa domenica la finale dei mondiali, una finale tra Olanda e Spagna, due squadre che non hanno mai vinto i mondiali. Per la Spagna si tratta della prima finale mondiale della sua storia, l'Olanda invece è la sua terza finale dopo il 1974 e il 78. Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti, il nostro direttore. Noi parliamo con opinionisti di altissimo livello, infatti abbiamo in collegamento il direttore della sezione italiana di Radio Alma, Roby Giava. Buonasera direttore. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per l'altissimo livello, ma non credo di poter meritare questa definizione. Il secondo ospite è Maurizio Molinari, giornalista e collaboratore di Radio Alma, nonché conduttore di On the Court, che se non sbaglio è in studio. Buonasera, ciao Maurizio. Ciao Alessandra, ciao Annalisa, ciao Michele. E ciao. Il terzo ospite è Michele Merroni, grande regista di Giro di Boa. Buonasera ancora Michele. Buonasera a tutti. Dunque Annalisa, altissimo livello, io comincerei subito con l'amico Paul. Chi è che se lo mangerà l'amico Paul domenica sera? Roberto. Io un'idea ce l'avrei. Secondo me se lo fa in padella, se lo fa la signora Merkel, perché ha portato una sfiga incredibile alla Germania. La Germania che raggiunge quest'anno la terza semifinale consecutiva ai mondiali di calcio, credo che sia un risultato abbastanza, non so se è il record unico, però mi sembra molto importante, denota un livello della squadra tedesca alto negli anni. 4-3 mondiali vuol dire a cavallo circa di 12 anni di preparazione, per cui ancora una volta, per la terza volta consecutiva, la Germania che perde in semifinale, questa volta il colpevole c'è. Ecco, in Italia non riusciamo mai a trovare il colpevole, loro l'hanno trovato ed è il povero Paul. Maurizio. Ma questo polipo, ricordiamo un po' la storia, è un polipo che sembra indovinare tutti i pronostici delle partite della Germania. Era già stato testato agli europei di 2 anni fa in Austria e Svizzera, e praticamente come funziona? Che gli vengono messe 2 vaschette di cibo con le bandiere delle squadre, quindi la Germania e il suo avversario, e a seconda di dove il polipo mangia vuol dire che quella squadra vincerà la partita. Questo polipo ha sbagliato per ora solo la finale dell'europeo scorso, Germania-Spagna, vinta dalla Spagna, e il polipo ha mangiato dalla ciotola, insomma dal cibo tedesco. In questo mondiale ha indovinato 6 partite su 6. Non credo che, se devo scommettere, non penso gli faranno gli chiederanno un pronostico per Spagna-Olanda, ma piuttosto terranno viva questa leggenda e magari se lo mangeranno prima dei prossimi europei per evitare che sbagli, ecco, per evitare che magari questo polipo sbagli. Per quanto riguarda il pronostico, magari lo facciamo alla fine. Sì, certo, pronostico assolutamente alla fine, ma a questo punto ovviamente la domanda è spontanea, è il momento. A questo punto possiamo fare un bilancio sull'Italia, sulla squadra che Lippi ha fatto giocare. Quando ne abbiamo parlato la prima volta, l'Italia aveva disputato solo una partita, si apprestava a disputare la partita con la Nuova Zelanda. A quel tempo avevamo parlato di formazione, quali giocatori Lippi avrebbe dovuto fare giocare, quindi un'Italia che aveva deluso, ma c'era ancora, diciamo, qualche barlume di speranza. Roberto, ti giro la domanda, quindi un commento, un'analisi, un bilancio di questa Italia che Lippi ha portato al mondiale. Roberto, la domanda è per me? Sì. No, la domanda è per me, sì, ma ho, credevo, Roberto, in realtà il... Roberto, credevo che il tuo commento fosse il silenzio stampa, visto che c'è stato un silenzio. No, spiego subito. È arrivata l'audio, mi arriva dallo studio a tratti, quindi praticamente un campionamento che ho dovuto interpolare per capire che era una domanda, che la domanda era a me e anche che tipo di domanda fosse. La domanda l'ho capita, cioè il commento, l'analisi a ciò che è stata l'esperienza italiana a questi mondiali. Vorrei cercare di essere breve. Io so che mezzo mondo italiano ha trovato già il colpevole, e che nella persona ovviamente del nostro commissario tecnico Marcello Lippi. Io non sono convinto che si sia trattato soltanto della colpa di una persona, si è trattato un po' della colpa di un sistema che ha permesso a Lippi e ai suoi, chiamiamoli così per capirci volgarmente, amici, di partecipare a un mondiale che nelle cose era impossibile vincere, perché nessuna squadra è dato vincere il mondiale due volte di seguito, e si può approfondire anche questo argomento, però è chiaro che a un certo punto, se la squadra va avanti, intervengono poteri superiori che faranno in modo da bloccarne l'andamento. E dall'altro lato il girone che si presentava all'Italia dopo il sorteggio era particolarmente agevole, per cui anche a non mandarci la squadra migliore, ma anche rinunciando a Balotelli, rinunciando a Cassano, a Thiago Motta, a Niccoli eccetera, loro speravano comunque di arrivare in qualche modo agli ottavi e forse anche ai quarti. Ci sarebbero arrivati se i giocatori avessero messo un po' più di impegno. Però ecco, c'è questo primo fallimento totale, che è il sistema tipico di come si fanno determinate cose in Italia. È un po' il sistema alla Anemone, il sistema alla Bertolaso, dove ci sono gli amici degli amici, si fa la combin, si fa una cricca, ecco, termine molto in voga giornalisticamente parlando. La cricca comanda e prevede che ci vadano determinate persone che possiedono il potere. E a prescindere poi da come siano andati i risultati sul campo, io trovo anche che sul campo quelle persone, quei giocatori che si sono prodigati per portare a casa almeno un pareggio, e neanche ci sono riusciti, perché con la Slovacchia, ricordiamo, ci bastava un pareggio per passare il turno e arrivare agli ottavi, e in realtà hanno messo in campo ben poco, cioè da giocatore di esperienza e di conto in banca milionario uno si aspetta quantomeno non dico il successo eclatante, ma almeno la dimostrazione di combattere, la dimostrazione di trainare gli altri, la dimostrazione, ecco, di giocare per il non per se stessi e non per spot pubblicitari personali, ma per una conquista di un successo corale. Questo in Italia non lo si è visto. Credo che sia un problema un po' più generico, generalizzato, il fatto che ormai i giovani non riescono, non vogliono forse, non, che sono molto cattivo, ma fatemelo essere almeno questa sera. Devo dire che gran parte delle colpe risiede anche appunto nel fatto che questa generazione, che io chiamo moscia, è una generazione che non riesce a fare 2 più 2 quando c'è da fare un sacrificio per una conquista corale. Potrei divagare, però vorrei sentire anche ciò che ne pensano gli altri in studio. Ragazzi, voi dallo studio condividete l'analisi di Roberto Giava? Michele, intervengo, posso intervenire io? Prego. Io in realtà ho visto solo una partita e mezza dell'Italia. La partita contro la Slovacchia l'ho perduta, per fortuna, perché avevo in quel momento una riunione importantissima che mi ha salvato da 90 minuti di sofferenza. Io dico questo, solo fino a 4 anni fa la nazionale italiana è riuscita a vincere un mondiale in maniera proprio corale, cioè senza avere grandissime individualità, ma avendo tanti grossi campioni, fra cui alcuni che spiccavano, e fino a solo 4 anni fa questo è bastato. Credo che sia una questione generazionale. Questa generazione di calciatori è, diciamo, non all'altezza di ciò che è stato l'Italia negli ultimi 15-20 anni, quindi sempre una nazionale diciamo leader, comunque una nazionale che poteva giocarsela. Poi certo Lippi ha provato la sua formula, che ha cercato di puntare su certe persone di cui si fidava, certi giocatori di cui si fidava, però anche se avesse portato Cassano, Balotelli eccetera, io non credo che l'Italia comunque sarebbe avrebbe fatto chissà cosa, perché in questo momento il livello dei nostri calciatori è questo, è inferiore a quello di altre 7 o 8 nazionali. E poi dopo il perché, questione generazionale, capita, oppure ci sono politiche calcistiche che non danno spazio ai giovani e che fanno andare in campo i giocatori della nazionale così con questa paura, perché la nazionale è anche fatta, era fatta questa nazionale di giocatori che tranne tre o quattro elementi non avevano una grande esperienza internazionale, insomma, e quindi è andata così, e credo che nemmeno il Polpo avrebbe però potuto prevedere l'eliminazione come ultima nel girone. Non so cosa ne pensa Maurizio. Maurizio, tu cosa ne pensi? Quindi anche se ci fossero stati Balotelli o Cassano, la situazione non sarebbe cambiata per la squadra? Ma io non lo so, alla fine con Ima non si va tanto in là. Secondo me è una cosa da dire è che probabilmente anche a livello atletico la squadra era stata preparata, convinti di passare il girone abbastanza facilmente, quindi erano tutti abbastanza imballati, sia atleticamente che poi anche dopo psicologicamente, quindi Michele ha ragione, questa nazionale non sarebbe probabilmente potuta andare molto avanti, anche Roberto ha ragione, però il girone l'avrebbe dovuto passare. E in questo senso un giocatore come Cassano, un giocatore come Balotelli, secondo me un minimo di differenza la potevano fare. Detto questo, a me stupisce di Lippi il fatto che non sia riuscito a motivare la squadra, perché sarebbe bastata più motivazione sia con la Nuova Zelanda sia con la Slovacchia. C'è stata un po' di sfortuna, ricordiamo che poi si sono infortunati veramente i due giocatori più rappresentativi, quindi Pirlo e Buffone, in una nazionale che già ne aveva pochi, insomma perdere quei due. Ci sono stati un paio di episodi contestati, diciamo che ci sono state diverse, sicuramente la ruota non ha girato a favore dell'Italia come magari aveva fatto nel 2006, se magari avesse girato a favore dell'Italia almeno ai quarti ci sarebbe arrivato. Però ecco, secondo me anche il fatto della preparazione atletica, quando è venuto a giocare qui in Belgio l'Italia contro il Messico erano veramente, si vedeva che avevano lavorato molto, fatto allenamento molto sulla muscolatura, quindi probabilmente volevano entrare in forma dai quarti convinti di passare il girone che era effettivamente facile. Ricordiamo che l'Italia ha fatto il mondiale peggiore della sua storia, perché era successo un'altra volta se non sbaglio nel mondiale del 56 o del 52 che non si era qualificata alla seconda fase, però almeno una vittoria l'aveva ottenuta, mentre questo mondiale con due pareggi e una sconfitta è il peggiore della storia. Detto questo, secondo me, io sarò anche deviato dalla mia passione calcistica, ma non metto in dubbio le qualità di Lippi come allenatore, semmai metto in dubbio le sue scelte e il modo in cui ha messo in campo e i giocatori che ha chiamato. Secondo me gli ultimi 20 minuti con la Slovacchia sono veramente, si vede un po' anche lì lo stampo di Lippi, nel senso che è una squadra che quasi quasi al 95esimo stava segnando il 3-3. Con Lippi c'hai sempre la speranza di rimontare, poi questa volta è andata male, è andata molto male. Annalisa, se sei d'accordo io manderei una pausa musicale prima di concludere questo argomento e poi salutare ovviamente i nostri amici radioascoltatori per la pausa estiva. Assolutamente, pausa musicale e poi rientriamo per un'ultimissima domanda e i saluti. So I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city where flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in, don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, just teeth for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. No nobody near us to see us or hear us. No friends and relations on weekend vacations. We won't have it known that we have a telephone, dear. Day will break, you'll awake and start to bake a cari radioascoltatori, siete ritornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Abbiamo nuovamente aperto una finestra sui mondiali con i nostri ospiti. E prima della classica domanda di rito, la domanda finale, il pronostico, in questo caso chiederemo ai nostri ospiti un pronostico sulla finale, vorrei chiedere a tutti molto brevemente un commento sulle due finaliste. Non abbiamo parlato delle due finaliste, Olanda e Spagna. Direttore, vuoi iniziare tu? Sì, beh, è una bellissima partita, sarà una bellissima finale. Io faccio il tifo per l'Olanda, ecco, lo dico chiaramente, però il pronostico penso che vada in un'altra direzione, perché vedo già un'Olanda che giocherà più o meno come ha fatto la Germania contro la Spagna, cioè opportunamente imballata. Ricordiamo che la Spagna nutre questo centrocampo in cui fra Iniesta, Xavi Alonso non si passa, è il blocco del Barcellona, la Spagna se vuole fa muro, e quindi temo che si risolverà poi con un episodio questa bellissima finale, basterà un episodio, e che questo episodio sarà favorevole alla squadra che in questo momento credo, in questo momento storico, è più illuminata e più come dire, benedetta dagli astri, e che è la Spagna in questo momento. Maurizio, Michele? Beh, la Spagna campione d'Europa, ricordiamolo, e io non posso che dire Spagna, visto che l'avevo detto già dall'inizio, e oltretutto diciamo così, che se non dovesse vincere la Spagna, dovesse vincere l'Olanda, secondo me Sneijder, che è probabilmente il giocatore migliore dei mondiali e vince anche il pallone d'oro, perché è un giocatore che vince la Champions League e il mondiale. Però ecco, ha ragione Roberto, la Spagna è più concreta, c'ha una difesa sicuramente migliore di quella dell'Olanda. Nonostante tutto l'Olanda mi ispira più simpatia, nonostante abbia anche scommesso dei soldi sulla Spagna, ma l'Olanda mi ispira più simpatia, però se devo dire dico Spagna. Beh, velocemente, mi fa piacere che in finale siano andate due squadre con mentalità, diciamo, offensiva, che non hanno paura del pallone, ma che lo vogliono giocare. Fra le due vedo però favorita la Spagna, perché è più completa, soprattutto in difesa. Ecco, questo è quanto. Annalisa, hanno già risposto alla tua ultima domanda, per cui se non ti dispiace ne avrei una io per finire. Visto che si è parlato di allenatori, di giocatori, di sistema, di amici degli allenatori, di quant'altro, volevo chiedere ai nostri ospiti in maniera concisa, ovviamente, perché non abbiamo tantissimi minuti, se si poteva passare ad un altro livello. Le critiche sono state tante, però nelle alte sfere non si è mosso niente, o meglio, nessuno. Albertini ed Abete sono ancora lì. Voi che cosa ne pensate? Roby, due parole. Pochi minuti non bastano, però. È quello che ho detto, conciso. Guarda, Abete al calcio italiano come Blatter al calcio mondiale, purtroppo nessuno dei due si smuoverà, come la cozza che è attaccata allo scoglio sarà quella che daranno il regalo al polpo Paul, non aggiungo altro. Ottimo, direi. Maurizio? Sì, Roberto ha ragione, il paragone è veramente azzeccato, soprattutto io, lasciando perdere la situazione italiana che è quella che rimarrà così probabilmente per qualche anno, mi chiedo perché dopo questo mondiale, dopo le polemiche arbitrali, il gol non dato all'Inghilterra con la Germania, gli stessi episodi arbitrali delle partite dell'Italia, ancora ci si ostini a cambiare pallone ogni mondiale, a non voler mettere la prova televisiva che risolverebbe veramente, toglierebbe molte polemiche, voglio dire, in un calcio che gioca a 100 all'ora gli arbitri non possono stare dietro a tutti. E questa è sempre colpa dello stesso Blatter che nominava Roberto prima. Michele? Devo dire che per questo sfascio dell'Italia si è già trovato un colpevole, che è Lippi. Dopo che sia veramente lui il colpevole o meno, e ce n'è già uno che è molto per i nostri standard, quindi chiedere anche la testa di Abete sarebbe stato veramente troppo. Beh, Alessandro, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, Roberto Giava, Michele Merloni, Maurizio grazie Molinari. Grazie a voi. Grazie. E non ci resta che dare fine d'anno anche la trasmissione Giro di Boa, chiaramente. Non è la fine d'anno, Roberto, buone è la vacanze. Fine della stagione. Perché? Cosa ho detto? Allora, Annalisa, ovviamente un ringraziamento a tutti i nostri ospiti di questa sera e di che ci hanno seguito in questa stagione, un ringraziamento ai nostri radioascoltatori che ci seguono ormai da 5 anni e buona estate a tutti. Un ringraziamento anche ai nostri registi, Michele Merloni questa sera, il direttore Roberto Giava e Giulio. Un saluto a tutti, grazie. E non ci resta che appunto augurare buona estate a tutti i nostri radioascoltatori e a dare l'appuntamento sulle frequenze di Radio Alma per Giro di Boa a settembre. Buona estate a tutti. Buona estate. Secreto por dentro a mí me quema. Seguir sintiendo amor es una locura. Ya no hay perdón de Dios, ya no hay margaritas en mi luna, solo un mar lleno de dudas. Buscando tu boca, me enredas con tus manos, me quieres, me abandonas, muero sin ti de pena, o muero contigo a solas. No entiendo el corazón cuando se desboca, la fuerza del amor es un arrebato entre las sombras, un deseo que no se lo que más suena en España para ti en Radio Alma. Une heure.